Non c'erano molte persone che avessero il diritto a essere invitate al funerale, e di costoro si erano occupati Mr. Gibson e l'agente ereditario dello Squire. Ma quando Mr. Gibson arrivò la mattina successiva di buon'ora, Molly gli riferì una domanda che le era venuta in mente, anche se lo Squire in apparenza no. Come comunicare quella perdita alla vedova che viveva in solitudine vicino a Winchester, aspettando e vegliando? Se non per l'arrivo di colui che giaceva morto nella dimora lontana, almeno per una delle sue lettere. Una missiva era già arrivata, scritta nella sua grafia straniera, all'ufficio postale al quale venivano recapitati tutti i suoi messaggi, ma naturalmente a Hamley Hall. Nessuno sapeva niente. Bisognava che glielo si dica, rifletté Mr. Gibson. Sì, bisogna, convenne sua figlia. Ma come? Un giorno o due di attesa non faranno alcun danno, osservò lui, come ansioso di posticipare la soluzione del problema. La metterà in angoscia, poveretta, e ogni sorta di terribili ipotesi le si presenterà alla mente, e tra queste anche la verità. Sarà una specie di preparazione. Cosa? Qualcosa bisogna fare alla fine, disse Molly. Sì, è vero. Supponiamo che tu le scriva dicendo che è molto malato. Scrivile domani. Mi pare che indulgessero nello scriversi quotidianamente, dunque lei avrà 3 giorni di silenzio. Le dirai come sei venuta al corrente di tutto. Penso lei debba sapere che è molto malato, che versa in grave pericolo, se preferisci. E il giorno dopo puoi far seguire la tua lettera con la rivelazione di tutta la verità. Meglio non turbare lo Squire con la questione. Dopo il funerale discuteremo del bambino. Lei non se ne separerà mai, asserì Molly. Caspita! Finché non l'avrò vista non posso giudicare, ribatté suo padre. Certe donne lo farebbero. Suo figlio sarebbe trattato bene, a quanto tu dici. E lei è forestiera. È probabile che abbia un grande desiderio di tornare dai suoi, fra la sua gente. C'è molto da dire da entrambi i lati della questione. Così sostieni sempre, papà. Ma in questo caso io penso che scoprirai che ho ragione. Baso la mia supposizione sulle sue lettere. Ma penso di aver ragione. Così sostieni sempre, figliola. Il tempo lo dimostrerà. E così è un maschio? Mrs. Gibson ha insistito che lo chiedessi. Questa la aiuterà parecchio a riconciliarsi con l'idea che Cinzia abbia lasciato Roger. Ma in effetti è un bene per entrambi, anche se naturalmente a lui servirà un bel po' di tempo per arrivare a pensarla così. Non erano adatti l'uno all'altro. Povero Roger, è stato molto difficile scrivergli ieri. E chissà cos'è stato di lui. Beh, beh. In qualche modo bisogna affrontare il mondo. Tuttavia sono lieto che questo piccolo diventerà l'erede. Non mi sarebbe piaciuto se la proprietà fosse passata agli Hamley irlandesi, che seguono in linea di successione, come una volta mi spiegò Osborne. Ora scrivi la tua lettera, Molly, a quella povera francesina là fuori. La preparerà e noi dobbiamo pensare un po' a limitare il suo shock, per amore di Osborne. La stesura di quella missiva fu un lavoro piuttosto arduo per Molly, che strappò a 2 o 3 versioni prima di esserne soddisfatta, e alla fine, disperando di riuscire a far meglio, la spedì senza rileggerla. Il giorno dopo fu più semplice. Il fatto della morte di Osborne fu comunicato con brevità e delicatezza, ma quando questa seconda lettera fu inviata, il cuore di Molly cominciò a sanguinare per la povera creatura privata di suo marito, in terra straniera. E lui lontano, morto e sepolto, senza che lei avesse neppure avuto la possibilità di fissare nella memoria i suoi cari tratti, grazie a un ultimo, lungo e indugiante sguardo. Con la mente occupata dal pensiero della sconosciuta Aimée, Molly quel giorno parlò di lei allo Squire. Egli prestava sempre orecchio a qualsiasi tipo di congettura, per quanto illogica a proposito del nipote, ma continuava a evitare ogni discorso in merito alla francese, come la chiamava lui. Non era scortesia, ma per lui era semplicemente la francese, chiacchierona, con gli occhi scuri e espansiva e probabilmente imbellettata. L'avrebbe trattata con rispetto in quanto vedova di suo figlio e avrebbe persino tentato di non pensare all'adescamento femminile di cui era convinto. Le avrebbe concesso una rendita, nei termini imposti dal suo dovere, ma sperava e confidava che non gli sarebbe mai stato chiesto di incontrarla. Il suo avvocato, Gibson, chiunque, erano invitati a costituire una falange difensiva contro quel pericolo. E nel frattempo la giovane donna, minuta dagli occhi grigi, era in viaggio. Non era diretta verso di lui, ma verso il suo defunto figlio, quel marito che lei credeva ancora in vita. Sapeva di agire contrariamente a un suo espresso desiderio, ma lui non l'aveva mai turbata, esprimendole i timori che nutriva in merito alla propria salute. E lei, che splendeva di vita, non aveva mai pensato che la morte sarebbe venuta a portarle via una persona tanto amata. Egli era malato, molto malato, diceva la lettera della ragazza sconosciuta, ma ahimè, si era presa cura dei suoi genitori e sapeva cosa fosse la malattia. Il medico francese aveva elogiato le sue capacità e la sua abilità di infermiera, e anche se lei fosse stata la donna più maldestra del mondo, non era forse egli suo marito, il suo tutto? E non era lei sua moglie, il cui posto era accanto al suo cuscino? Così, ragionando anche meno di quanto scritto qui, ahimè fece i suoi preparativi e ingoiò le lacrime che sarebbero traboccate dai suoi occhi per piovere nel piccolo baule che lei stava riempendo con tanto ordine. E accanto a lei, sul pavimento, sedeva il bambino, che aveva ormai quasi 2 anni, e per lui, ahimè, aveva sempre un sorriso e una parola allegra. La sua domestica l'amava e si fidava di lei, e aveva l'età in cui si ha esperienza del genere umano. Ahimè, lei aveva detto che suo marito era ammalato, e la donna sapeva abbastanza della storia della famiglia per rendersi conto che il ruolo di ahimè come moglie non era ancora stato riconosciuto. Però ella simpatizzava con la subitanea decisione della padrona di recarsi subito da lui, ovunque egli si trovasse. La prudenza deriva da un qualche tipo di educazione, ed ahimè non si lasciava sgomentare dagli avvertimenti. La donna la pregò solo di lasciare il bambino lì, con lei. «È una tale compagnia», disse, «e farà molto stancare la mamma durante il viaggio, e forse suo padre è troppo malato per poterlo vedere». Al che, ahimè, rispose, «Per voi non è una buona compagnia, ma per me lo è ancora di più». Una donna non è mai stanca di portare con sé suo figlio, cosa non vera, ma c'era abbastanza sincerità in questa affermazione da renderla credibile sia per la domestica che per la sua padrona. E se Monsieur sarà in grado di interessarsi a qualcosa, sarà felicissimo di sentire i balbettamenti del suo figlioletto. Così Aimé salì al bivio più vicino, sulla carrozza della sera diretta a Londra, e Marta, che l'accompagnò alla partenza come chaperone e come amica, le porse il bambino, ben fatto e robusto, che già splendeva di gioia alla vista dei cavalli. Ahimè prese una stanza, invece che in un hotel, in un negozio di lingerie gestito da una francese che aveva conosciuto quando lavorava a Londra come bambinaia, e lì trascorse le poche ore notturne che dovevano passare prima della partenza della carrozza per Birmingham l'indomani mattina presto. Dormì o vegliò sul sofà del salotto, perché non c'era un letto in più. Ma Madame Patilin si presentò da lei di buon'ora con una buona tazza di caffè per la madre e una di soupe blanche per il bambino. E poi essi si rituffarono nel vasto mondo, pensando solamente, cercando solamente, quel lui che per entrambi era tutto ciò che c'è d'umano. Ahimè ricordava il suono del nome del villaggio dove Osborne, come le aveva detto spesso, scendeva dalla carrozza per poi procedere a piedi verso casa. E benché non fosse assolutamente in grado di compitare quella strana e sgraziata parola, tuttavia la pronunciò con elegante e lenta chiarezza al vetturino, chiedendogli con il suo inglese smozzicato quando sarebbero arrivati. Non prima delle 4. Ahimè, cosa sarebbe potuto accadere fino ad allora? Una volta con lui ella non avrebbe più avuto paura ed era certa di poterlo guarire. Ma cosa non poteva succedere prima che lui si trovasse nelle sue tenere mani? Lei era una persona molto capace sotto molteplici punti di vista, per quanto così infantile e innocente in altri aspetti. Aveva deciso quale strada prendere una volta che la carrozza l'avesse depositata a Feversham. Chiese ad un uomo di portare il suo baule e di mostrarle la via per Hamley Hall. «Hamley Hall?» esclamò il locandiere. «In questo momento c'è molto trambusto laggiù». lo so», rispose lei, affrettandosi a seguire la carriola che trasportava il suo baule e sforzandosi, ansando, per il bambino pesante e addormentato fra le sue braccia di mantenere il passo. Tutto il suo corpo pulsava, non riusciva quasi a vedere al di là dei propri occhi. Per lei, che era straniera, le tende tirate della casa, quando la vide, non ebbero alcun significato. Si affrettò, incespicando. «Portale principale o sul retro, signora?» chiese il facchino della locanda. «La più vicinissima», rispose lei, e la più vicinissima era la porta d'ingresso. Molly sedeva con lo squire nel salotto oscurato e leggeva ad alta voce la propria traduzione delle lettere di Aimee al marito. Lo squire non si stancava mai di sentirle, il suono stesso della voce di Molly lo consolava e lo confortava, era così tenue e dolce. Ed egli la riprendeva, come fanno i bambini, se a una seconda lettura e la sostituiva una parola con un'altra. Quel pomeriggio la casa era molto silenziosa, silenziosa come era oramai da tanti giorni. Ogni servitore, sebbene non ce ne fosse bisogno, si muoveva in punta di piedi, parlava a voce bassissima e chiudeva le porte con la massima delicatezza possibile. Il più vicino rumore o cenno di vita attiva era quello delle cornacchie sugli alberi, che iniziavano le loro indaffarate chiacchiere primaverili. All'improvviso, quella quiete fu rotta da un primo scampanellare alla porta d'ingresso, che poi, tirato da una mano ignara e vigorosa, fu ripetuto e continuò a riecheggiare nella casa. Molly smise di leggere. Lei e lo Squire si guardarono con sorpresa e turbamento. Forse l'idea di un ritorno improvviso, impossibile, di Roger attraversò la mente di entrambi, ma nessuno dei due parlò. Udirono Robinson correre a rispondere all'imprevista chiamata. Tesero l'orecchio, ma non sentirono più nulla. C'era poco di più da sentire. Quando l'anziano servitore aveva aperto la porta, ecco una donna con un bambino fra le braccia. Ella aveva pronunciato d'un fiato la frase in inglese che si era preparata. «Posso vedere il signor Osborne Hamley? È malato, lo so, ma io sono sua moglie». Robinson era cosciente dell'esistenza di un qualche mistero, sospettato da tempo dai domestici e alla fine rivelato al padrone. Aveva indovinato che fosse coinvolta una giovane donna, ma quando se la ritrovò lì, di fronte, a chiedere del marito morto come se fosse in vita, Robinson era rimasto privo della propria presenza di spirito. Non poteva dirle la verità. Poté solo lasciare la porta aperta e dirle: «Aspettate un momento, tornerò». E dirigendosi verso il salotto dove sapeva di trovare Molly, le si avvicinò, frettoloso e agitato, e sussurrò al suo orecchio qualcosa che la fece impallidire per lo sgomento. «Cosa c'è? Cosa c'è?» disse lo Squire tremando per l'angoscia. «Non tenetemelo segreto, posso sopportarlo». «Roger!» Entrambi credettero che l'uomo fosse sul punto di svenire. Egli si alzò e si avvicinò a Molly. L'attesa era peggio di qualunque altra cosa. «Mrs. Osborne Hamley è qui», lo informò Molly. «Le ho scritto per dirle che suo marito era molto malato e lei è venuta». «Evidentemente non sa cos'è successo», aggiunse Robinson. «Non posso vederla». «Non posso vederla», disse lo Squire, rifugiandosi in un angolo. «Andrai tu, Molly, vero? Vai tu». Molly rimase immobile e indecisa per un minuto o due. Anche lei sperava di evitare quel colloquio. Robinson interloquì. «Sembra una creatura fragile e ha portato con sé un bel bambinone. E da quanto lontano arrivi non gliel'ho chiesto». In quell'istante la porta si aprì dolcemente e proprio in mezzo a loro si fece avanti quella figura minuta vestita di grigio che sembrò sul punto di cadere sotto il peso di suo figlio. «Voi siete Molly», disse, senza vedere subito lo Squire, «la signora che ha scritto la lettera. Lui mi ha parlato di voi qualche volta. Mi porterete da lui?» Molly non rispose, se non che in certi momenti gli occhi parlano con solennità e comprensione. Ahimè, lesse cosa comunicavano. Tutto ciò che disse fu: «Non è mio marito. Mio marito». Le sue braccia si rilassarono, il suo corpo scillò, il bambino strillò e tese le braccia in cerca di aiuto. Quell'aiuto gli fu porto dal nonno, un attimo prima che Aimée cadesse a terra, priva di sensi. «Mamma, mamma!» urlò il piccolo, ora dimenandosi e lottando per tornare da lei, lì dove lei giaceva. Si divincolò con tanta forza che lo Squire dovette metterlo giù e il bimbo strisciò verso il povero corpo inanimato, dietro cui Molly si era posta per sostenere la testa, mentre Robinson correva a prendere dell'acqua, del vino e un'altra donna. «Poveretta, poveretta!» disse lo Squire, chino su di lei e piangendo per la sua sofferenza. «È tanto giovane, Molly, e deve averlo amato tanto». «Sicuramente», ribatté subito Molly. Stava slacciando il cappellino e sfilando i guanti lisi, ma ben rammendati. Ecco i capelli neri, morbidi e lucenti, che adombravano il viso pallido innocente. Le belle manine brunite, il cui solo ornamento era la fede nuziale. Il figlio strinse la mano intorno a un dito della madre, si accucciò contro di lei con un gemito lamentoso che cresceva sempre più, fino a diventare uno scoppio di pianto. «Mamma, mamma!» All'irrompere di quell'implorazione, la mano di lei si mosse, le labbra fremettero, e la tornò parzialmente cosciente. Non aprì gli occhi, ma grosse e pesanti lacrime scivolarono giù da dietro le sue palpebre. Molly le teneva la testa appoggiata al petto, tentarono di darle del vino, ma lei lo rifiutò. Dell'acqua, che accettò, e fu tutto. Alla fine tentò di parlare. Portatemi via, pregò, al buio, lasciatemi sola. Così Molly e l'altra donna la sollevarono e la portarono via. La posarono sul letto della migliore camera della casa e oscurarono anche la luce già fioca. Lei stessa era come un corpo incosciente, perché non offrì alcuna resistenza né assistenza a quanto esse stavano facendo. Ma un momento prima di lasciare la stanza per stare di guardia fino alla porta, Molly udì, o meglio, avvertì che, ahimè, le rivolgeva la parola. Cibo, pane e latte per mio figlio. Ma quando ne portarono per lei, ella lo respinse e voltò il viso verso il muro senza dire una parola. Nella fretta, il bimbo era stato lasciato con Robinson e lo Squire. Per qualche ragione sconosciuta, ma molto fortunata, aveva preso in antipatia il viso rosso e la voce rauca di Robinson e aveva mostrato una netta preferenza per il nonno. Quando Molly scese, trovò che lo Squire dava da mangiare al nipote e sul suo viso c'era più pace di quanta ce ne fosse stata in tutti quei giorni. Il bambino ogni tanto smetteva di mangiare il suo pane e il suo latte per dimostrare a Robinson la sua avversione con un gesto e una parola, un comportamento che faceva divertire il vecchio servitore e che riempiva di gioia il prediletto Squire. Se ne sta distesa, immobile, ma non vuole né parlare né mangiare. Non penso neanche che pianga, comunicò Molly di propria iniziativa, visto che lo Squire era al momento troppo assorbito dal nipote per fare delle domande. Robinson intervenne. Dick Hayward, il facchino del Hamley Army, dice che la carrozza con cui è arrivata è partita da Londra stamattina alle 5 e i passeggeri hanno detto che lei ha pianto tanto per la strada quando pensava che la gente non la vedesse e non ha mai mangiato insieme agli altri, ma si è fermata per nutrire il bambino. Sarà esausta. Dobbiamo lasciarla riposare, disse lo Squire, e io credo che questo piccoletto stia per addormentarsi fra le mie braccia. Dio lo benedica. Ma Molly si allontanò inosservata e mandò un ragazzo a Hollingford a portare un messaggio a suo padre. Il suo cuore si era intenerito per la povera straniera e lei non sapeva con certezza quali decisioni prendere per la sua situazione. Di quando in quando andava di sopra per dare un'occhiata alla ragazza, che era appena più grande di lei e che giaceva lì con gli occhi aperti ma immobile come la morte. Ogni tanto la copriva delicatamente e le faceva sentire la propria simpatia, e questo fu tutto ciò che le fu consentito di fare. Lo Squire era curiosamente concentrato sul bambino, ma la tenerezza più sentita di Molly era rivolta alla madre. Non che ella non ammirasse il piccolo, così robusto, bello e in salute, di cui ciascun arto e ciascun centimetro dei vestiti mostravano la cura tenera e generosa che gli era stata tolta. Dopo un po' lo Squire sussurrò. Lei non è francese, vero, Molly? Non lo so. Non so che aspetto abbiano le francesi. La gente pensa che Cinzia sia francese. E non ha l'aspetto di una domestica. Non parliamo di Cinzia, visto che si è comportata in quel modo con Roger. Insomma, avevo iniziato a pensare, non appena ci sono riuscito, dopo quello, a come avrei potuto rendere felice lei e Roger e farli sposare subito. E poi è arrivata quella lettera. Io non l'ho mai voluta come nuora. Io no, ma lui sembrava di sì. E non era tipo da desiderare tante cose per sé. Ma adesso è tutto finito. Solo non parliamo di lei, e forse, come dici tu, lei è più francese che inglese. Quella povera creatura sembra una signora, penso. Spero che abbia degli amici che si prenderanno cura di lei. Non avrà più di 20 anni. Credevo fosse più vecchia del mio povero ragazzo. È una creatura bella e gentile, commentò Molly, ma a volte credo che questo l'abbia uccisa. Giace come se fosse morta. E Molly non poté evitare di piangere piano a quel pensiero. No, no, ripeté lo Squire, non è così facile spezzare un cuore. A volte ho desiderato che lo fosse, ma si deve continuare a vivere per tutti i giorni che ci sono stati assegnati, come dice la Bibbia. Noi però faremo del nostro meglio per lei, non penseremo a mandarla via finché non sarà abbastanza in forze da poter viaggiare. Nel suo cuore Molly era dubbiosa su quell'andar via in merito al quale lo Squire sembrava così pienamente risoluto. Era certa che egli intendesse tenere con sé il bambino. Forse aveva il diritto legale di farlo, ma la madre si sarebbe mai separata da lui. Suo padre, tuttavia, avrebbe risolto il problema, suo padre, al quale lei guardava sempre come un uomo di grande esperienza e lungimiranza. Aspettò con desiderio il suo arrivo. Scese la sera di febbraio, il piccolo dormì tra le braccia dello squire finché il nonno fu stanco e lo posò sul divano, quel grande divano giallo ad angolo su cui era solita sedere Mrs. Hamley, con i cuscini a reggere la sua posizione un po' reclinata. Da quando lei non c'era più, il sofà era stato spostato contro il muro ed era stato usato solo come oggetto di arredamento che riempisse la stanza. Ma ancora una volta una figura umana vi era ora distesa, una piccola creatura umana, come il cherubino di un antico dipinto italiano. Lo squire ricordò sua moglie mentre deponeva lì il bambino. Pensava a lei quando disse a Molly: come sarebbe stata contenta? Molly invece pensava alla giovane vedova al piano di sopra. Da principio lei era ahimè. Poco dopo, ma sembrò essere trascorso molto tempo, ella udì dei suoni rapidi e solleciti che l'avvertirono dell'arrivo di suo padre. Ed eccolo entrare nella stanza che era ancora illuminata solo dalla luce incostante del fuoco. Capitolo 54. La scoperta del valore di Molly Gibson. Mister Gibson entrò sfregandosi le mani dopo la cavalcata nel gelo. Dal suo sguardo Molly comprese che era stato informato dettagliatamente da qualcuno su come stavano le cose in quel momento a Hamley Hall. Egli però si avvicinò semplicemente per salutare lo squire e attese di sentire cosa gli venisse riferito. Lo squire stava armeggiando con la candela sullo scrittoio e prima di riuscire a rispondere compiutamente l'accese e fece cenno all'amico di seguirlo. Si diresse verso il divano e gli mostrò il bambino addormentato facendo moltissima attenzione a non svegliarlo con la luce o il rumore. Beh, questo è proprio un bel gentiluomo, commentò Mr. Gibson, ritornando presso il fuoco, molto prima di quanto lo squire si aspettasse. E ho saputo che avete qui sua madre, Mrs. Osborne Hamley, com'è giusto chiamarla, poveretta. Il suo è un mesto ritorno a casa. Ho sentito infatti che non sapeva nulla della sua morte. Parlò senza rivolgersi con precisione a nessuno, così che sia Molly che lo squire potessero rispondere come aggradava loro. Lo squire disse: sì, è stato un terribile shock per lei. È di sopra, nella camera migliore. Vorrei che la vedeste, Gibson, se ve lo consentirà. Dobbiamo fare il nostro dovere per lei, per amore del mio povero ragazzo. Vorrei che avesse potuto vedere suo figlio disteso qui. Lo vorrei proprio. Direi che il fatto di dover tenere tutto segreto lo ha consumato, però avrebbe dovuto conoscermi, avrebbe dovuto sapere che il mio abbaiare è peggio del mio mordere. E tuttavia è tutto finito adesso, e Dio mi perdoni se sono stato troppo duro. Ora ho la mia punizione. Molly era impaziente che ci si occupasse della madre. Papà, credo che sia molto malata, forse sta peggio di quanto pensiamo. Vuoi andare a vederla subito? Mr. Gibson la seguì di sopra e anche lo squire salì con loro, pensando che ora avrebbe fatto il proprio dovere e provando persino un po' di autocompiacimento nel riuscire a vincere il proprio desiderio di stare col bambino. Entrarono nella stanza dove la giovane era stata portata. Ella giaceva immobile, nella stessa posizione di prima, i suoi occhi erano aperti e asciutti, fissi sul muro. Mr. Gibson le parlò, ma lei non rispose. Le sollevò la mano per sentirle il polso, lei non se ne accorse. Portami subito del vino e del brodo di manzo, ordinò il dottore a Molly. Ma quando tentò di avvicinarle il vino alla bocca, mentre lei era stesa sul fianco, la ragazza non fece alcun sforzo di berlo o di ingurgitarlo e la bevanda corse giù sul cuscino. Mr. Gibson lasciò la stanza di scatto, Molly strofinò la piccola mano inanimata, lo squire rimase lì in piedi, in muto sbigottimento, commosso, suo malgrado, dalla vita e morte di una persona così giovane, che doveva essere stata tanto amata. Mr. Gibson ritornò facendo due gradini alla volta, portava in braccio il bambino mezzo sveglio. Non si preoccupò di destarlo del tutto perché fosse più sveglio. Non si addolorò nel sentirlo iniziare a gemere e a piangere. I suoi occhi erano puntati sulla figura nel letto e a quel suono tremò tutta. E quando il figlio le fu posto dietro la schiena e cominciò carezzevolmente ad arrampicarsi per farsi ancora più vicino a lei, ahimè si voltò. Lo prese tra le braccia, lo cullò e lo consolò con la dolce abitudine dell'amore materno. Prima che perdesse questa debole coscienza, che era meccanica o istintiva piuttosto che razionale, Mr. Gibson le parlò in francese. L'unica parola del bambino, maman, gliel'aveva suggerito. Era di sicuro la lingua maggiormente comprensibile per quella mente obnubilata, e il fatto era, ma questo Mr. Gibson non pensò, che il francese era anche la lingua in cui le erano stati impartiti ordini e nella quale aveva imparato a obbedire. La loquela di Mr. Gibson era un po' arrugginita all'inizio, ma un po' alla volta gli recuperò tutta la scioltevolezza di un tempo. Da principio le storse delle risposte secche, poi più articolate, e di quando in quando insistette per farle bere qualche goccio di vino, fino a che non fossero disponibili degli altri viveri. Molly era colpita dai toni bassi, confortanti e amichevoli del padre, sebbene non riuscisse a seguire ciò che veniva detto abbastanza in fretta da capirne il significato. Poco dopo, tuttavia, quando suo padre ebbe fatto tutto ciò che poteva e si ritrovarono di nuovo al piano inferiore, egli raccontò loro del viaggio di Aimé più di quanto essi sapessero. La fretta, il senso di agire a dispetto di un divieto, l'ansietà predominante, la notte interrotta e la fatica del percorso erano state pessime premesse per lo shock finale, e Mr. Gibson era veramente preoccupato per le sue conseguenze. Le risposte che lei gli aveva dato erano state stranamente deliranti. Ella era conscia di vaneggiare e tentava con grandi sforzi di tornare in sé, ma Mr. Gibson prevedeva che sarebbe sopraggiunta una malattia fisica, e quella sera si fermò fino a tardi per pianificare diverse questioni con lo squire e con Molly. Il solo, l'unico sollievo dato dalle condizioni della ragazza era la probabilità che entro l'indomani, il giorno del funerale, ella sarebbe stata totalmente incosciente. Consumato dalle emozioni contrastanti di quel giorno, lo squire pareva ora incapace di guardare oltre lo strazio e l'ordalia delle successive 12 ore. Egli sedette con la testa fra le mani, rifiutandosi di andare a dormire, rifiutandosi di soffermarsi sul pensiero del nipote, che neanche 3 ore prima era stata una tale gioia per i suoi occhi. Mr. Gibson diede alcune istruzioni a una delle cameriere, ordinandole di vegliare su Mrs. Osborne Hamley, e insistette affinché Molly andasse a letto. Quando la figlia protestò supplichevolmente che era necessario che lei stesse alzata, egli le disse: «Ora, Molly, vedi quanti meno problemi darebbe il caro vecchio squire se obbedisse agli ordini. Abbandonandosi così non fa che accrescere l'angoscia. Però si perdona tutto a chi è colpito da un estremo dolore. Tu, invece, per i giorni che verranno, avrai abbastanza da fare, da richiedere tutte le tue forze. E adesso devi andare a letto. Vorrei solo avere in altre cose la certezza che ho in merito a quello che è il tuo dovere in questo momento. Vorrei non aver mai consentito a Roger di andarsene ramingo, e lo desidererà anche lui, poveretto. Ti ho detto che Cinzia sta partendo in tutta fretta per recarsi dallo zio Kirkpatrick. Immagino che far visita a lui sostituisca l'idea di andare a fare l'istitutrice in Russia. Sono certa che quel suo desiderio fosse molto serio. Sì, all'epoca. Non ho dubbi che fosse sincera nella sua intenzione di partire. Ma la cosa importante era sfuggire alla spiacevolezza della posizione del momento attuali, e lo zio Kirkpatrick sortirà questo effetto molto meglio e più gradevolmente di quanto potrebbe fare un posto di lavoro a Nishni Novgorod in un palazzo di ghiaccio. Egli aveva distratto i pensieri di Molly ed era quello che voleva. Molly non poté fare a meno di ricordare Mr. Henderson, la sua proposta e gli accenni che ne erano conseguiti, e i dubbi, i desideri. Ma cosa desiderava lei? O stava per addormentarsi? Prima di aver completamente accertato questo fatto, stava dormendo per davvero. Dopo questo, lunghi giorni trascorsero in una monotona serie di responsabilità e preoccupazioni. A nessuno, infatti, passò per la mente la possibilità che Molly lasciasse Hamley Hall durante la penosa malattia occorsa a Mrs. Osborne Hamley. Non che suo padre le consentisse di prendere parte molto attivamente nell'assistenza alla malata. Lo squire gli diede carta bianca e il dottore assunse 2 efficienti infermieri d'ospedale per vegliare su Aimè, che era priva di coscienza. Ma c'era bisogno di Molly per ricevere le dettagliate prescrizioni in merito al trattamento e alla dieta. Non le si chiedeva di prendersi cura del bambino. Lo squire era troppo geloso dell'amore esclusivo del nipote e una delle cameriere fu incaricata di assolvere alle necessità fisiche del piccolo. Allo squire, però, serviva qualcuno che ascoltasse la sua sbrigliata eloquenza, sia quando a dominare era l'appassionato rimpianto per il figlio morto, sia quando gli scopriva qualche straordinario incanto nel figlio di quel figlio. E di nuovo, quando era oppresso dall'incertezza riguardo alla prolungata malattia di Aimè. Molly non era affascinante né brava come Cinzia ad ascoltare una conversazione ordinaria, ma quando il suo cuore era coinvolto, la sua simpatia era profonda e inesauribile. In questo caso, ella desiderava solamente che lo squire riuscisse davvero a convincersi che, ahimè, non costituiva l'intralcio che egli evidentemente credeva. Certo, egli non avrebbe riconosciuto questo fatto se gli fosse stato esposto a parole distinte. L'uomo lottava contro la vaga consapevolezza di ciò che c'era nella sua mente. Parlava ripetutamente di pazienza, quando nessuno a parte lui era impaziente. Continuava a dire che, quando lei fosse stata meglio, non le avrebbe permesso di lasciare Hamley Hall fino a che non fosse tornata completamente in forze, quando nessuno, a parte lui solo, contemplava la seppur minima possibilità che lei si separasse da suo figlio. Un paio di volte Molly chiese a suo padre se non dovesse parlare con lo squire e fargli presente la difficoltà di mandarla via, l'improbabilità che la consentisse a lasciare il bambino e via dicendo, ma Mr. Gibson rispose solo: aspetta in silenzio, ci sarà tempo quando la natura e le circostanze avranno avuto la loro occasione e avranno fallito. Era un bene che Molly fosse la prediletta dei domestici, doveva infatti spesso intervenire per limitare e controllare. Di sicuro era sostenuta dall'autorità di suo padre ed essi erano consapevoli che dove si trattasse del proprio conforto, agio o piacere, ella non interferiva mai, ma si rimetteva alla loro volontà. Se lo squire fosse stato al corrente delle carenze che caratterizzavano il modo in cui lei veniva servita e che accettava con la più perfetta mitezza, dato che era solo lei a soffrirne, si sarebbe infuriato. Ma Molly non ci pensava, tanto era ansiosa di fare tutto ciò che poteva per gli altri e di ricordare i vari incarichi che suo padre le assegnava in occasione delle sue visite quotidiane. Forse egli non la risparmiava abbastanza, le era docile e non si lamentava mai. Ma un giorno, dopo che Mrs. Osborne Hamley aveva svoltato, come dissero le infermiere, e giaceva debole come un neonato, ma in possesso di tutte le sue facoltà, senza febbre, e quando stavano sbocciando le gemme della primavera e gli uccellini primaverili cantavano in allegria, Molly rispose all'improvviso interrogatorio di suo padre di sentirsi stanca in modo indescrivibile, di avere un forte mal di testa e di essere consapevole di riuscire a pensare solo lentamente e di fare grandissima fatica a superare questa indolenza. Basta, disse Mr. Gibson con un subitaneo impulso d'angoscia, quasi di rimorso. Stenditi qui con la schiena rivolta alla luce. Tornerò a vederti prima di andar via. E andò a cercare lo squire. Dovette camminare a lungo prima di imbattersi in Mr. Hamley, in un campo di grano dove le donne stavano strappando le erbacce, mentre il nipote stringeva il suo dito negli intervalli delle brevi passeggiate esplorative nei luoghi più sudici, che erano l'unica attività consentitagli dalle sue piccole membra robuste. Bene, Gibson, come sta la paziente? Meglio? Vorrei che potessimo farla uscire con questa bella giornata. Le darebbe forza più di qualsiasi altra cosa. In passato supplicavo il mio povero ragazzo di uscire di più. Forse lo facevo preoccupare, ma l'aria è il mezzo migliore per mettersi in forza che io conosca. Forse però lei non avrà benefici dall'aria inglese come se fosse nata qui. E non starà bene del tutto finché non sarà tornata a casa sua, ovunque sia. Non so, comincio a credere che qui la faremo stare meglio e non so se potrebbe stare altrove. Ma non si tratta di lei. Posso ordinare la carrozza per la mia Molly? La voce di Mr. Gibson parve un po' soffocata mentre diceva queste parole. Certo, ripose lo squire, mettendo giù il bambino. L'aveva tenuta in braccio per pochi minuti, ma ora aveva bisogno di fissare gli occhi e tutta la propria attenzione su Mr. Gibson. Dico, continuò afferrando il braccio di Mr. Gibson. Che problema c'è, amico mio? Non fate quelle smorfie, parlate. Non c'è nessun problema, replicò in fretta Mr. Gibson. Voglio solo che torni da noi, averla sotto gli occhi. E si voltò in direzione della casa. Ma lo squire lasciò il campo e le sarchiatrici e si mise al fianco di Mr. Gibson. Voleva parlare, ma aveva il cuore così gonfio che non sapeva che dire. Dico, Gibson, sbottò alla fine, la vostra Molly per me è più una figlia che un'estranea, e mi rendo conto che tutti noi ci siamo approfittati troppo di lei. Non pensate ci sia qualcosa di grave, vero? Come posso dirlo? Ringhiò quasi Mr. Gibson. Qualsiasi intemperanza però lo squire la capiva istintivamente, non si offese, anche se non parlarono più finché non raggiunsero la casa. Dopodiché egli andò a ordinare la carrozza e rimase lì piuttosto addolorato finché i cavalli venivano legati alla vettura. Sentiva di non sapere che fare senza Molly, non aveva mai riconosciuto il suo valore, Rifletteva fino a quel momento. Però non espresse questo pensiero, il che era uno sforzo degno di elogio per un uomo che generalmente permetteva al prossimo di vedere e sentire le sue emozioni come se avesse avuto una finestra aperta sul petto. Rimase in disparte mentre Mr. Gibson aiutava Molly, che sorrideva debolmente, con le lacrime agli occhi, a salire in carrozza. Allora lo squire salì sul predellino e le baciò la mano, ma quando tentò di ringraziarla e di benedirla, non si controllò più. E non appena fu di nuovo saldamente a terra, Mr. Gibson urlò al conducente di partire. Così Molly lasciò Hamley Hall. Di quando in quando il padre, che la seguiva a cavallo, si avvicinava al finestrino e faceva qualche commento gaio e apparentemente spensierato. Quando furono a una distanza di 2 miglia da Hollingford, egli diede di sperone al suo cavallo e superò velocemente i finestrini della carrozza, mandando alla passeggera un bacio sulla punta delle dita. Voleva anticiparla per preparare la casa per lei. Quando Molly arrivò, trovò Mrs. Gibson ad accoglierla.